sdraiato sopra il divano, c'era un procione sopra la televisione. Entrò nel bagno, era uno stagno con un alligatore che si lava nel bidet. Tutto sudato, allucinato, ma stai tranquillo, sussurrava un coccodrillo. Io Piero Angela non lo sopporto più, e Piero Angela sta sempre alla TV. Piero Angela quanti anni ha? È nato prima Piero pure Super Quark. Poi sono uscito, ho preso l'auto, mentre tre zebre attraversavano le strisce. Una gazzella mi fa costare, non sa la strada per andare alla stazione. Tre tigri ferme alla fermata aspettano incazzate che passi il loro tram. Il conducente era allarmato e giustamente, infatti era uno gnu. Io Piero Angela non lo sopporto più, e Piero Angela sta sempre alla TV. E Piero Angela quanti anni ha? Prima Piero pure Super Quark. Piero mi volto e mi tengo per sbaglio guardato, la macchina del tempo è vero che sono un coglione. Una volta guardato c'è chi guardato, la macchina del tempo è vero che sono un coglione. Una volta ho guardato, c'è chi paone.